Prima di cominciare la vostra diretta, volevo dirvi che bisogna entrare nello studio di Giuoco per essere padroni di Giuoco. Non cambierei mai la vostra rosa con la rosa di nessun'altra radio. Voi entrate in studio sapendo di essere i più forti. Convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Ma ditemi voi se io il 22 di dicembre devo essere qui a parlare di calcio invece di essere a casa a tagliare panettone. Franco Piantanina, nostro autore, Fabio Cantadori in regia e Matteo Caccia che mi deve spiegare perché oggi è arrivato alla radio con la maglia di Kovacic. Buongiorno a tutti, non è vero? Dai, ringrazio Fabio Cantadori che conosce a memoria le basi del nostro programma, che però insomma diciamo non è il momento giusto, non è il momento adatto. Non so, Carlo è andata così, Carlo mi ha detto ti va di fare una chiacchierata sull'Inter in apertura? Sì. E visto che era la prima volta che mi chiamava, non dopo una delle sconfitte dell'Inter, ma dopo un pareggio. Sì, ma perché mi sono rammollito. Perché no? No, allora, l'Inter di ieri sera, classica partita natalizia, cioè una squadra improponibile all'inizio, quella schierata da Mancini, che però tanto voi interisti supporterete fino alla morte e sopporterete fino alla morte perché è bello, ha la sciarpa, ha vinto gli scudetti, eccetera, eccetera. Parli di Mancini o della squadra? Di Mancini. Una squadra improponibile, quella proposta Mancini nel primo tempo, la Lazio giustamente avanti 2-0 e poi nel secondo tempo una giustatina alla squadra, la Lazio che dice ma sì, ma tanto è Natale, Kovacic che fa quel gol memorabile e poi Palacio che non segnava da praticamente da 3 anni e è venuto fuori questo pareggio e tu oggi vieni con la maglia di Kovacic, perché? Guarda, mi piacerebbe avercela la maglia di Kovacic, in realtà sono una vecchia maglia dei tempi di Facchetti, perché sai che nella natura del tifoso c'è sempre un po' di malinconia per il passato. Guarda, io per come l'ho vista dallo stadio la partita, tutto sbagliato all'inizio e qualcosa corretto nella seconda parte, però è anche vero che la squadra è quella lì, insomma, lo diciamo da ormai 2 anni, non è che puoi... Però se ieri sera ci fosse stato Mazzarri in panchina... Vabbè, non ne sarebbe uscito vivo probabilmente Mazzarri dallo stadio, se povero, se fosse stato lui in panchina. Questo però ormai è una cosa che diciamo che tutti, anche se alla fine del primo tempo sembrava che l'Inter fosse retrocessa in Serie B dai fischi che piovevano dallo stadio. Perché i tifosi dell'Inter fischiano a prescindere? Ma non lo so e mi piacerebbe chiederglielo. Non capisco 8-0-0-24, perché cazzo fischiate? Se c'è qualcuno che va allo stadio e che appena Ranocchia sbaglia il secondo passaggio... Ranocchia che tra l'altro è il miglior difensore dell'Inter, o Guarin, no? Sbaglia il terzo, lo fischiano, ci dicano per piacere il perché, visto che io ogni volta che sento qualcuno fischiare mi metto nei panni di quel ragazzo lì che è sul campo e si sente fischiare da tutti, io mi domando come faccia a continuare a giocarci, come abbia il coraggio di continuare a rimanere lì. Io però non è che posso prendermela con tutti quelli che fischiano, perché altrimenti tu non fischi naturalmente. No, ma scherziamo, ma è una roba, cioè, quanto vale Kovacic? Me lo domandi? Non ho idea. Quest'estate il Real parlava di una proposta. No, ma non quanto vale economicamente, vale come giocatore, secondo te, Matteo Kovacic? Allora, noi siamo nella condizione in cui devi innamorarti dei giocatori, certo, in questo momento, no? Non potendoci permettere Tevez o Mvilla o un altro grande calciatore, devi innamorarti di quelli che hai, e quelli che hai soprattutto se sono giovani e ti hanno fatto vedere qualcosa di buono. Io credo che valga tanto quanto è in grado di crescere in questo anno che ha davanti. Dalla sua credo che non abbia un carattere fortissimo, ne parlavamo prima. Sono d'accordo. Non credo sia uno con quella pacca che hai che affronti tutto lo stadio a muso duro, e forse quello potrebbe essere un problema. Però devo dire che comunque da sempre, da quando io sono a San Siro, da quando lui entrava in campo era sempre super coccolato dal pubblico, che è la stessa cosa che è successa ieri per Bonazzoli. Appena Bonazzoli ha messo piede in campo, applausi, incitamenti, il pubblico di San Siro è proprio una bestia strana. Ti chiedo ancora due cose: chi vorresti sotto l'albero di Natale? Quali giocatori vorresti? Facciamo due. anche perché tre non si può comprare, non si può, non si può guarda, guarda, se già ne prende allora uno dice, Cerci, Lavezzi, Lennon, a me piace Lucas, Lennon, a me piace Lennon, Lennon, sì, a me piace molto Lennon, Lucas io non lo so, manco mi ricordo, sta ancora al PSG, sì. Lucas, non lo so, devo dire non lo conosco come giocatore, sicuramente Lennon, io credo che più di uno non ne comprerà, se va bene, però ieri San Siro ha dato un messaggio molto molto chiaro. Sarebbe? In apertura di partita, cantando per 5 minuti mentre la partita andava, per 5 minuti core contro Mario Balotelli. Come dire? Questa era la seconda cosa che ti volevo chiedere. Diamo questo messaggio, ragazzi, che sia chiaro a tutti. Non lo vorresti Balotelli? Dargli un'altra chance è tosta, eh. Non lo so, non... Per la storia della maglia? No, perché non è un giocatore costante, perché questa squadra qua adesso, secondo me, ripeto, parlo da uno che è un tifoso, quindi non faccio testo come fate tu Giovanni e Pierluigi, però questa è una squadra che ha bisogno di gente che abbia voglia di correre, sostanzialmente. Secondo me... Chi sta parlando? Secondo me questa è una squadra che ha bisogno di giocatori di pallone. Beh, certo, però parliamo di gente che ha voglia di correre, magari c'è Medel, c'è Mbilà, c'è la banda dei mediani. Sì, sì, però guarda, però è anche vero che, ripeto, e poi ti lascio e poi scappo, però dal primo tempo un'altra cosa che si è vista ieri era che questa è una squadra depressa, cioè che proprio soffre di una sindrome depressiva, per cui dopo il sfortunata pure perché piglia un gol dopo 1:45 e soprattutto che appena fa un errore si prende delle bordate di fischi, quindi ha bisogno di certezza, ha bisogno di un po' più di tranquillità, e giocare a San Siro da questo punto di vista non aiuta. Però è anche vero, come dico sempre, che noi non vediamo l'ora di amarli questi ragazzi, basta che facciano tanto così e noi siamo pronti per volergli bene. Allora ti saluto Matteo Caccio e ti ringrazio con questi due messaggi. Fischiano perché sostanzialmente l'interista non capisce niente di calcio, scrive Giacomo. E Paolo scrive: amiamo chi gioca per la maglia, come dice Elio. Ma questa però, scusami, come si chiama lui? Quale secondo? Il secondo. Non si firma. Paolo. Amiamo chi gioca per la maglia, come dicevi. Guarda, questa della maglia però è anche un po' una minchiata, perdonami, sì. Perché alla fine sono giocatori di calcio che vengono pagati per giocare. A me basta semplicemente che uno dia, non dico il 100% sempre, però che faccia vedere che ha voglia di giocare. Poi gioca per la mia squadra perché lo paga la società per cui io tifo, e quindi va bene, insomma, non è che credo che i colori, cioè la storia della maglia vale per i tifosi, un certo. Po' meno per i giocatori, certo. No? Siamo nel 2014 e lo sappiamo, però io sono pronto a volergli bene, glielo dico ragazzi, io sono pronto a volervi bene, basta veramente anche un tiro fuori, anche un dribbling in più, non vedo l'ora di amarvi. Allora chiediamolo, perché cazzo fischiate? 800 24 00 24, grazie Matteo, grazie, ciao, ciao. Bonazzoli va col sinistro dentro, palla per Palacio, si è sbloccato il Trenza, dalla Lazio alla Lazio, non segnava da maggio. Convocati. Ancora per Vidal, libero di poter alzare la testa, mettere questo pallone in mezzo, Chiellini, Cragno ancora e poi Tevez, fortissimamente Tevez, dopo 3 minuti la Juve già in vantaggio con il 10° gol in campionato. È una partita secca e non abbiamo possibilità di sbagliare, è una squadra molto ben organizzata, una squadra che quando gioca le partite senza sbavature è difficile da battere. Per vincere bisogna fare una grande partita sotto il piano dell'intensità e della tecnica. Uno contro uno, lascia partire il cross, pallone che sfila, Popovic, il Pipita, Higuain, avanti il Napoli al 16°, stavolta non ha perdonato. Credo che abbiamo detto che è una finale, partita secca, nella testa di tutti, solo abbiamo questa partita e niente di più, dobbiamo concentrarsi per fare il meglio e basta, l'istoria non conta per una partita, sono 90 minuti o di più per farlo con la convinzione che possiamo vincere. Allora, Io in questo momento sto consegnando fisicamente 20 euro a Fabio Cantadori da scommettere sulla vittoria del Napoli in Supercoppa Italiana. Ci sono i testimoni, tutta Radio 24. Ciao Pierluigi Pardo. Ciao, ciao, anch'io mi associo, anche se... Li metto per te. Ma sì, è proprio un così, diciamo, un pronostico complicato e sicuramente dire, no? Sì, però vedi, ieri la Lazio quasi l'avevo beccata, sempre quasi. Io faccio dei pronostici. Io anche però, Certo, certo. Beh, insomma, ti sei perso 10 minuti d'antan con Matteo Caccia che domandava ai tifosi di Inter: "Ma perché fischiate? Perché? Perché al primo passaggio sbagliato di Guarin sono fischi da tutte le parti?" Però partita strana, molto natalizia quella di ieri. Sì, nel senso che la Lazio ha fatto sto regalo, diciamo. Ha fatto sto regalo, esatto. Si è messo una mano sul cuore dopo il primo tempo, ha fatto sto regalo all'Inter, tanto che, vabbè, Kovacic un regalo per gli occhi di tutti noi, quel sì, gol, sì, non c'è sì, dubbio. Sì. E Palacio una specie di miracolo di Natale, dai, non segnava dall'Epifania scorsa. Sì, sì, sì, sicuramente, guarda, ieri veramente, insomma, è un pareggio, per carità, poi alla fine, paradossalmente, l'Inter ha avuto anche l'occasione per vincerla, anche la Lazio ha avuto l'occasione per fare il 3-2, però si è vista la differenza fra due squadre che... La Lazio è molto più avanti dal punto di vista della compattezza, sì, è molto più avanti. Poi forse l'Inter potrà, intervenendo sul mercato, forse l'Inter ha più margini di miglioramento, no? La distanza fra questa Inter e quella potenziale è sicuramente superiore, però insomma ieri la Lazio, se avesse vinto, non avrebbe rubato nulla, secondo me. Massimiliano Max Nerozzi da Doha, buongiorno. Ciao, non sono un giocatore della Juve, quindi rispondo alla convocazione. Grandissimo, grandissimo. È una battuta. Ma secondo me fanno benissimo a non rispondere alla convocazione, peraltro, fanno no, benissimo. Quindi, no, ma lo so, cioè, che tu sei attestato al tema, guarda, te l'ho detto. No, ma cos'è sta storia che... No, voglio i giocatori, se no mi dimetto. Ma dove? Cioè, ti dimetti? Va bene, ti 4 milioni e mezzo lo sapevi anche prima, no? Lo sapevi, perché lo sapevi che i giocatori arrivano quando... Quando devono arrivare, non è che tra una coppa e una partita con la Roma ti metti a chiedere i giocatori e se la Juve non vuole sono tutti stronzi, non funziona così. È Antonio Conte. Sarà anche Antonio Conte, ma Antonio Conte lo sapeva anche prima. Ma certo lo sapeva. Ieri è stato Dimmi, ieri è stato spettacolare sul tema De Laurentiis, è stato spettacolare ieri, una conferenza stampa fantastica. Lo so, immagino. Io per un attimo ti dico, avrei pensato, una volta lo disse Pardo, mi sembra, immaginerei una squadra con De Laurentiis presidente e Conte allenatore. Sì, quanto dura? Sì, sarebbe strepitoso. No, ma magari dura, ma sarebbe strepitoso per noi giornalisti, secondo me. Sì, sì, è Mourinho presidente, onorario. No, Max, allora, io ho messo 20 sul Napoli stasera, Pardo, li metto per lui altri 20, tu? Metti i soldi anche per io te? Dico, no, io non scommetto, ma dico 2-1 Napoli. Quindi siamo in tre. Perché vogliamo fare? Perché vogliamo fare tutti, cioè, vogliamo... la Juve, allora. La giochiamo, la Juve, giochiamo, no, sta partita, no, o la diamo su senza giocarla, Max? Dai. No, non lo so, no. Dice altro, la nostra dice 51% Juve, dai. No, è vero, la Juve è favorita, secondo me, però forse un po' si è esagerato con il concetto di partita secca, però e ieri Buffon ha detto che il Napoli è nelle top 10 addirittura di quelle più scomode da incontrare, certo, in vero, una sera, però secondo me è vero, perché ha dei picchi di rendimento che anche secondo me la miglior Juve ci arriva, nel senso che da centrocampo in su Napoli per me è tra più, forse la più forte in Italia. Ragazzi, non sono le parole di circostanza che si dicono, no, sempre, pure se affronti per niente. Parma, non me ne voglio i tifosi del Parma in questo momento. Ma no, poi noi che ce ne frega, cioè. Ma no, a noi proprio meno di zero ce ne frega. Però detto questo, il Napoli è una squadra che appunto ha dei picchi di rendimento spaventosi. È una squadra che nelle grandi partite spesso si esalta. Io ero rimasto abbastanza sorpreso da San Siro una settimana fa, proprio perché se c'è una. Poi il Napoli ha tre categorie da recuperare rispetto alla Juve nella continuità di rendimento in campionato. Lì il Napoli è lontanissimo dalla Juve e lo dimostra la classifica, ma sulla partita secca ha dimostrato in questi anni di essere una squadra che può tranquillamente battere chiunque. Ha battuto la Juve, ha battuto la Roma, alcune volte anche per... Ha vinto in Europa, ha vinto in Champions. Sì, sì, ha vinto i Champions, partite importantissime contro grandi squadre, ha vinto la Coppa Italia, comunque la Coppa Italia la vinci attraverso una serie di partite secche o al massimo nei 180 minuti, quindi questa cosa qui è oggettiva e fa bene la Juve secondo me stasera a prendere tutte le precauzioni perché non è facile per niente. No, ma poi se hai un attacco come quello del Napoli, se hai un Higuain che in questo momento è indisponente, io fossi De Laurentiis lo multerei tutte le domeniche perché ha un atteggiamento indisponente, non da leader ma da superstar bizzosa, però sai, uno come lui, se hai Martens, se hai Amsic, se hai questa gente davanti, per forza di cose diventi comunque una squadra pericolosa per una Juventus, Max, che ha bisogno comunque di vacanze, Sì, ha bisogno di vacanze, ieri Allegri l'ha detto pur tenendo in piedi l'icona di Tevez, perché lo stesso Tevez quando siamo arrivati qua a Doha molto, molto onestamente, quasi scusandosi, perché lui è un tipo fatto così, ha detto che non è mai stato così stanco il suo periodo più critico alla Juve, sia di testa che di gambe. Oggettivamente Tevez le prime 6-7 partite ha fatto la differenza per la Juve. Posso dire che su Tevez, che ha un comportamento da professionista esemplare e veramente da uomo squadra, faccio fatica a pensarlo bizzoso come era successo per esempio al Manchester City a un certo punto. Cioè faccio fatica a immaginare che un giocatore così professionale, così corretto nell'essere anche aggressivo, no? Cioè comunque uno che dà tutto per la maglia ma che comunque ha una professionalità di un certo tipo, ecco, quel periodo di al Manchester City mi rimane un po' un buco nero, perché da uno come lui faccio veramente fatica a immaginarmelo invece, no, irascibile, polemico. Com'è Higuain in questo periodo? Beh, al cubo, dai, adesso Higuain, al cubo. Al cubo. In questi giorni, in queste giornate, secondo me poteva fare di più. Pier, forse non so, io mi ricordo i primi discorsi di Antonio Conte. Penso che forse il problema sia stato che a Manchester gli capitava alcune volte di andare in panchina, e Artura, ti ricordi, ci fu a Monaco, sì, nella Champions League quando volete entrare. Ma se lui è uno che gioca, sai, Conte diceva, sì, spesso che lui ne ha visti pochi lavorare, quindi cioè Tevez può avere tutti i difetti, bizzoso se non gioca, ma se gioca è uno che si allena 2 ore al giorno, è uno che veramente ti rincorre, viene in difesa a chiudere in area, mena, in allenamento mena, perché mi ricordo che Chiellini raccontò una volta che se fai un uno contro uno, cioè ti scontri con lui, lui ha visto volare via gente molto più grossa di Tevez, è uno che si fa volere bene dai compagni, non tira il piede indietro, gioca anche quando ha le caviglie disastrate o il ginocchio come in questi mesi. Quindi che gli vuoi dire? È uno forse che aveva quel problema lì, ma nella Juve dove gioca sempre, forse la sua squadra ha trovato la sua dimensione. Sì. Un'ultima cosa, Max, strane e interessanti le parole di Buffon alla vigilia, capitano della Juventus e della Nazionale, messaggio per Allegri, per Conte, per tutti e due o per chi? Secondo me soprattutto per Conte e per la Juve stessa. Ha più o meno ripetuto le parole che lui disse il 15 luglio quando Conte diede un addio, e lì Buffon disse: dobbiamo essere noi giocatori a dimostrare che abbiamo avuto un grande allenatore, ma che i 3 scudetti sono arrivati anche perché sono una grande squadra, una grande società. Per come parlava ieri Buffon e a oggi i risultati, la squadra ha avuto ragione. Dopodiché sappiamo tutti che il metro dello sport sono le vittorie, quindi magari già stasera faremo altri discorsi o meno, però insomma gli ottavi di Champions ci sono, e l'anno scorso non c'erano. La Juve prima in classifica, per adesso sta andando bene il collaudo. Ma sarebbe stato fare un torto a questa generazione di giocatori bianconeri pensare che tutto era pronto a sfasciarsi con un altro allenatore, fra l'altro bravissimo, perché a lei è stato trattato i primi giorni come fosse uno scarto. Bravo Pier, bravo. Ma no, bravo. Dicevo a luglio, lo dico oggi. Bravo. Allegri è un bravo allenatore, punto. Poi può aver sbagliato in certi momenti, secondo me a un certo punto si è incartato nelle dinamiche interne del Milan, non ha avuto la forza secondo me per uscirne. E probabilmente gli avrebbe fatto bene, ma Allegri è un buon allenatore, poi gli allenatori top probabilmente sono altri, ma in Italia quella categoria lì, cioè, per me Ancelotti è un allenatore top, proprio certo, di livello superiore nella categoria degli allenatori del campionato italiano. Secondo me Allegri ci sta benissimo ed è uno dei più bravi, e sarebbe stato fare un torto alla professionalità e alla qualità della Juve che ha vinto, dei giocatori della Juve che hanno vinto gli scudetti in questi anni, pensare a chissà quale tracollo, a chissà quale atteggiamento, come se Conte fosse sì, un allenatore capace, no, di portarli. Deus ex machina, senza il quale tutto si sfascia. Conte è bravissimo, li ha usati nel senso bello alto del termine per tanti anni, gli ha fatto vincere tanto, ma questi sono forti e anche attraverso gli investimenti. E magari loro stessi vogliono dimostrare che va bene, non era solo Conte. Non era solo Conte, Max? Sì, hai ragione, io penso che la bravura barra forse anche l'attimo fuggente di trovare Allegri è stato avere un allenatore che è completamente diverso a Conte. Andare a prendere un suo replicante, cioè dico nel martellamento, insieme agli altri, sarebbe stato un disastro. Tu, caro, sei un appassionato di basket e io mi ricordo, facevo sempre la similitudine con Messina, mi ricordo le squadre rivisitate da Messina, da Mourinho nel calcio, sono allenatori che ti spremono la testa e le gambe. Se si fosse preso un altro Conte, secondo me sarebbe stata una scelta disastrosa. E così magari è una scelta vincente. Poi vedremo a fine campionato, però questa idea qua. La vedremo già da stasera. Grazie Max. Ciao a voi, buon pomeriggio. Quanti gradi? 24, perfetto, ci sta 24. Benissimo. 24. Però poi il 24. Il giornale locale oggi aveva un articolo. Cominciamo ad essere invidioso, quindi meno male che è ultra libero. Prima che te veniamo a prendere. Prima che te veniamo a prendere, andiamo un sacco di botte. Tutti convocati. Non giocherà la prima partita del 2015 perché è stato squalificato, quindi con tutta probabilità ci potrebbe arrivare il tempo per essere allenato. Potrebbe giocare contro la Juve. Ma lo stai dicendo lui adesso, io non fatti i calcoli, la seconda cosa è che potreste essere terzi in classifica se sei. Perché la Genova ha perso con Torino. Come ha perso? Da 2 a 1-0, da 1-0 ha fatto 2-1 il Torino. E il Napoli squadra dobbiamo ancora lavorare su un modulo che ci ha visto evidentemente indeboliti rispetto al passato, perché nel passato avevamo un modulo sperimentato per parecchi anni e all'improvviso quando tu cambi modulo non puoi sempre dire ma sai lì io prenderei quel giocatore e quel giocatore, se quel giocatore guadagna 10 milioni a stagione e quell'altro ne guadagna 8 non sono da budget napoletano. Noi abbiamo 3 fasce, quelli che guadagnano più di 600 milioni, quelli che stanno a 300 milioni e quelli che stanno poco sopra i 100 milioni. E allora è chiaro che la forza della possibilità di campionatura anche con i campioni già affermati diventa un discorso un po' più complesso, e per avere dei campioni da formare in casa ci vuole pazienza, ci vuole tempo, ci vuole molto lavoro, ci vuole soprattutto il fatto di non sedersi mai psicologicamente, ma di pensare sempre che domani è un altro giorno, perché se uno poco poco pensa campionato fottuto, soltanto il terzo posto, ma dove andiamo? Queste sono balle, perché le partite, se è bello il calcio, sono belle ciascuna per quello che esprime. Allora, quelli che dicono ma sai a me oggi non interessa più perché in fondo per cosa lottiamo, non lottiamo più per lo scudetto, lottiamo per onorare la maglia, per rappresentare una città che soffre, per rappresentare una parte d'Italia che poi non sta meglio di noi, perché mi sembra che l'Italia sia ferita tutta, sia proprio piegata in due, e quindi in questo contesto io credo che con grande dignità e senso dell'onore noi dobbiamo andare avanti e giocare in maniera super sportiva. Abbiamo un grande allenatore, abbiamo dei grandi giocatori, c'è un presidente che quando le cose non vanno non gliele manda a dire da lontano ma gliele dice direttamente, quindi avanti così. Quanto mi mancava quest'uomo! E allora abbiamo capito che l'azzurro che rappresenta l'Italia piegato in due non è quello della nazionale di Conte ma quello del Napoli. Pierluigi. Ma sì, insomma, dai, De Laurentiis è un personaggio straordinario. Commentavamo ieri sera che probabilmente alcune sue affermazioni su... cioè che io non escludo nulla, io non escludo neanche altri colpi di scena. Le sue dichiarazioni su Benitez di ieri facevano pensare a un addio. Sì. O comunque a un possibile addio che rimane ovviamente come ipotesi. Però io credo sinceramente che un personaggio come lui, che comunque ama fare battute, che qualche volta dà anche la sensazione di cambiare idea, così come si cambia idea nella vita, nel senso che poi non è certo, siamo meno politico su queste cose rispetto ad altri, quindi io non credo che sia una chissà quale sentenza nei confronti di Benitez. Lo dico no, ma poi onestamente la partita di questa sera è estremamente importante, certo, per il Napoli, perché potrebbe cambiare gli scenari, perché potrebbe portare qualcosa di diverso. C'è chi scrive: avevamo capito che siete anti-juventini fino all'osso, lo confermate tutti i giorni, andate a casa di Garcia a Natale, domanda un ascoltatore. Pardon, no, io sì, vado a casa di Garcia con Piantanida, foie gras e champagne per tutti. Beh, se ci sono foie gras e champagne vengo anch'io, eh. Vieni? Beh, lo dico a, anche se io sono il foie gras, insomma, diciamo, io sono uomo del popolo. Vuoi due escargot? Vuoi bouillabaisse? Ma io vorrei una matriciana. Matriciana da Rudy non si può fare. Sarà a Roma. Se sta a Parigi, se la fa da dove sta? A Lille. No, sì, ma tranquillo, tanto è un amico, come sai. Cioè, siamo per certo, lui, è un amico, quindi certo, ci fa preparare quello che vogliamo. Non ti preoccupare. Mario, provincia di Milano, buongiorno. Siamo l'Inter quando siamo allo stadio. Mario? Sì, pronto? Eccomi. Eccomi qua. Dica. Niente, la domanda è perché siamo l'Inter quando siamo allo stadio. Perché? Perché adesso è 30 anni che andiamo a vedere l'Inter, siamo abituati ad altri giocatori e siamo stanchi di dire 8 undicesimi di squadra mediocre, tutto lì. Forse perdiamo troppo presto la pazienza, ma siamo stanchi di quello. Sì, però mi ricordo anche che prima di Mourinho, prima di Ronaldo, c'erano anche Moriero, Colonnese, Fresi, aiutami Pier con la tua memoria storica. È vero. Quindi però, non è sempre festa, non è sempre Natale, non è sempre domenica. Non è sempre domenica, ha ragione perfettamente. È che adesso forse prima pagavamo e stavamo zitti, un po' come le tasse, adesso paghiamo ma vogliamo vedere lo spettacolo. Ma ci vuole anche un po' di pazienza, però. Cioè, ma nella vita in generale, ma non, certo, è inutile fare della filosofia, però c'è stata un'epoca in cui Moratti spendeva molto, non si vinceva mai, c'è stata un'epoca precedente a Moratti, e adesso c'è un'epoca successiva a Moratti in cui c'è una squadra da ricostruire, che è quella che è, sono stati fatti molti errori, però comunque non capisco il fischio a prescindere nei confronti della squadra per cui fa il tifo. Cioè, questo potrebbe valere anche per i tifosi del Milan in questo momento, poteva valere per i tifosi della Juventus negli anni dopo la risalita dalla Serie B. Ma i fischi arrivano. Poi ci sono tifoserie mediamente più tolleranti, tifoserie mediamente più esigenti. L'Inter credo che nella sua storia sia mediamente una tifoseria che quando le cose non vanno si fa sentire, insomma. Però sinceramente in questo momento, insomma, anzi ieri mi pare che nel secondo tempo abbia aiutato la squadra. La grande differenza fra Mancini e Mazzarri è l'ambiente per ora. Certo, questo è evidente. Io continuo a pensare che un discorso impopolare, insomma. 5 partite? 5 partite in campionato, 5 punti, una partita in Europa League. Insomma, diciamo che va bene, d'accordo, la bacchetta manca, nessuno se l'aspettava, però mi sembra che oggi possiamo dire con chiarezza assoluta che non era colpa di Mazzarri, solo colpa di Mazzarri. Questo credo che sia oggettivo, oggi è oggettivo, e penso che anche Mancini in cuor suo, al di là del fatto che le difficoltà sono oggettive, lui è un grande allenatore, avrà tutto il tempo per risistemare le cose, però forse si aspettasse o sperasse quantomeno in una partenza un pochino più morbida, perché guarda che ieri poi perché Kovacic si è inventato un gol incredibile, ma non è che ci fossero tutti questi segnali, chi ha visto la partita lo sa, non è che c'erano tutti questi segnali di una gara pronta a girare. Poi l'Inter è stata brava, dopo il 2-1 è stata brava, ci ha creduto, il pubblico ha fatto la sua parte, ha spinto, però insomma io ieri sono rimasto deluso dall'Inter. Sta lavorando bene, si è visto ieri sera, anche Mazzarri se per quello aveva lavorato bene, però con Mancini in questo momento diciamo c'è più forse unione di intenti con i giocatori e con la società, non so, mi sembra che tutto stia funzionando un po' meglio. Con la società sicuro. Questo è Moratti stamattina, sicuro. Ma spiegami queste parole. No, con la società, queste parole sono semplicissime, cioè Mancini ci piace di più di Mazzarri. Esatto, semplicemente questo, ma senza ragione, cioè non c'è una ragione, non c'è una ragione calcistica. La ragione, se te piace una piuttosto che un'altra, la ragione ci sarà, insomma, siccome questo punto di vista era largamente condiviso dai tifosi nerazzurri, alla fine è diventato una decisione che è stata presa. Però io credo che l'onestà intellettuale sia quella di dire che dopo 5 partite, ripeto, è prestissimo, ci mancherebbe altro, più il Karabag 0-0 col gol annullato al 94esimo, quest'Inter non è che abbia avuto la scossa, questo va detto, perché se non diciamo questo, allora poi cadiamo, secondo me, in un atteggiamento intellettualmente disonesto. È arrivato Mancini, ha portato un enorme entusiasmo, dal punto di vista dei risultati e del gioco per ora si vede poco e niente, e questa è la verità. Poi chiaramente Mancini ha la forza, io sono ottimista sul futuro dell'Inter con Mancini. Io continuo a pensare che sia che il progetto Inter sia leggermente più avanti rispetto al progetto Milan, per esempio, e continuo a pensarlo. Che sia più avanti? Sì. Sì, anche se a giudicare da quello che vediamo in queste ultime due partite sembra il contrario. Non lo so che è più avanti. Mi sembrano due squadre incompiute. Forse in questo momento, fondendosi, potrebbero, tecnicamente parlando, dico, ne farebbero una di altissimo livello, però hanno ancora troppe fragilità da una parte e dall'altra, insomma. La differenza vera è quella che diciamo all'inizio della stagione, è che il Milan aveva un allenatore in luna di miele con i tifosi, accettato. Adesso c'era anche l'Inter. Adesso c'era anche l'Inter, ma all'inizio aveva un allenatore che invece era un corpo estraneo. Questa è la grande differenza. Poi il resto, francamente, mi sembra, no? Tutto abbastanza. Sì, ma non c'è comunque una spiegazione calcistica, non c'è una spiegazione sportiva alle parole di Moratti. Cioè, non puoi dire adesso funziona tutto bene, 5 punti in 5 partite, però siamo felici, perché questo non esiste. Fiorello, provincia di Vicenza, buongiorno. Ciao Carlo e ciao Pierluigi. Ciao. Allora, io premetto che sono un tifoso interista e ieri ero allo stadio in Curva Nord. E di solito vi ascolto spesso, quasi sempre, e sono quasi sempre d'accordo con voi, però oggi devo dire che su due cose che avete detto non sono completamente d'accordo. Una intanto è quella dei fischi a Guarin, e è vero che ci sono stati dei fischi, però la tifoseria, la curva non ha fischiato, cioè i fischi vengono come al solito da altre parti dello stadio. Però qui si tratta di... Allora, Pierluigi era allo stadio a commentare la partita per Mediaset. Sì. Io non c'ero, non posso dirlo, però siamo sempre alla storia di Mazzari, no? Allora la curva non lo fischia, gli altri lo fischiano, decidiamoci su chi fa opinione, infatti, chi fa mercato per l'Inter. Al di là del fatto che ci sono, direi, delle scollature evidenti fra la curva e il resto del tifo, perché la curva, se non sbaglio, era molto più morbida nei confronti di Mazzarri. La curva in occasione di Inter Udinese ha messo uno striscione dicendo: visto che adesso non avete più nessuno da fischiare, almeno cominciate a tifare, se non sbaglio. Sì, vada a memoria. Esatto, sì, una cosa del genere. E quindi, insomma, è chiaro che ci sia uno scollamento. Ieri ero allo stadio, mi sembra che innanzitutto i fischi per Guarin sono stati progressivi, nel senso che non è che Guarin è entrato fra i fischi, poi ha cominciato a tirare da 3-4 volte da 40 metri, unita alla frustrazione di una partita che sembrava sbagliata. Quando è uscito c'è stata, nel secondo tempo c'è stato un tiro, c'è stata una bordata di fischi, e quando è uscito proprio una roba fuori dal mondo. Lì onestamente mi sembra difficile pensare che avesse fischiato solo una parte dello stadio, ma questo, ragazzi, fa parte della normalità. Cioè, adesso attenzione, finché un tifoso non è violento e si esprime semplicemente con il proprio fiato, può fare e dire quello che vuole, a patto che non sia violento e offensivo. Ci sta. Si tratta solo di capire. Io ieri a Guarin in pagella gli ho dato 4.5, per cui voglio dire, metaforicamente, per me i fischi sono giustificati. Traffico. Solo il bilancio di questo anno non da presidente, sia suo che dell'Inter. Beh, sono due cose diverse. Il mio è abitudini diverse, e mentre l'Inter, diciamo che ha fatto un anno la dovuta crescita che si deve fare in questi casi, quando ci sono tanti cambiamenti. Ieri sera abbiamo visto un buon risultato, nel senso che la squadra ha dimostrato sia carattere che gioco nel secondo tempo, quindi vuol dire che incomincia veramente a far vedere la sua crescita. Tutti convocati. 800240024 è il vostro numero verde. Pierluigi, sei d'accordo? Torniamo a Doha. Sì. Antonio Giordano, inviato del Corriere dello Sport. Ciao Antonio. Amico mio. Fategli fare il serio una volta tanto, dai. Amico mio, come stai? Come stai, Pippi? Si sta meglio a Cava dei Tirreni o a Doha? Si sta meglio a Cava dei Tirreni. Ma non svelare tutto, se c'è qualcosa che qualcuno che mi vuole male mi viene a pigliare fino a casa, poi, dai. Ma chi ti può voler male? Antonio è una, cioè, impossibile, è tecnicamente impossibile volergli male. Cioè, gli dica avere dei problemi proprio. Allora, Antonio, noi, no, noi abbiamo... Siamo sul serio o finisce in cabaret stasera? In cabaret, subito. Cabaret come al solito. Poi gioca a Napoli, formazione. Formazione. Beh, ho provato a interpellare il cuscino di Benitez, mi è andata ovviamente male. Credo che non posso discostarmi, giusto per essere d'accordo almeno con me stesso, da quella che ho scritto stamattina, cioè... Rafael Maggio Albiolg Koulibaly Ghoulam, David Lopez Schindler, Calleion Amsic Mertens e Higuain, e sono sicuro che l'ho sbagliata. Senti Antonio, io Pierluigi e anche Max Nerozzi abbiamo scommesso tutti sul Napoli, abbiamo consegnato soldi da portare poi alla ricevitoria, tu che fai? Partecipi? Devo dire che se puntate parecchio punto pure io, perché la quotano bene, certo, certo, è quello. No, ma, però la compagnia si allarga e mi inquieta, c'è pure Nerozzi? Sì, pure, c'è anche Nerozzi, ma... d'accordo con noi nel pronosticare. Ah, allora pensavo fosse in diretta, perché no, cioè... sono due macchine diverse. Vi dico che stiamo già andando allo stadio. Cioè, temperatura 24, confermi? Ma poco, più o meno sì. Sì, c'è un termometro che dice 24. Qui c'è tutto per le strade, negli alberghi. Non ci manca nulla, Pardo? Noi a Milano meno 7, no, siamo più 7, più 6, più 7. Uno dei segni della vecchiaia, che non è incipiente, è già arrivata, è proprio che ogni inverno lo vivo peggio, capisci? Perché proprio il fisico avrebbe bisogno, come gli americani che vanno in Florida durante l'inverno, no? Cioè quelle vacanze lì a caccia di... No, non voglio dire a caccia di cosa, non lo so, anche a caccia di niente, però voglio dire a caccia di caldo, a caccia di sepore. E quindi io oggi è una bellissima giornata a Milano, bellissima veramente, però ci saranno 4 gradi. Sì, 5, 6 a essere buoni, sì. Comunque, per confortare i telespettatori e farli sorridere, ho almeno 10 anni più di Pardo, anzi di più, però qualcuno lo nascondo, e non ho il fisico di Pardo. Pensate cosa mi aspetta al rientro quando mi imbatterò nel freddo italiano. Ma se torni a casa dei tiri, fa il bravo Antonio, dai, noi siamo qua a Milano a battere i denti e cioè, non c'è gara. Senti, piuttosto dimmi perché Benitez, perché De Laurentiis ha scelto questo palcoscenico per cantarle a Benitez, e poi spiegami perché non si riesce a comprendere questa incomprensione di fondo. Cioè Benitez è uno che arriva lì, chiede ai giocatori, quindi devi mettere i soldi, e devi aggiungere mattoni ogni anno. De Laurentiis ha sempre usato una politica diversa, cioè vendo Lavezzi, compro giocatori, vendo Cavani, compro giocatori, eccetera. Credo che la filosofia di De Laurentiis non faccia la grinza, non puoi permetterti di anche secondo me di quanto tu abbia. E quindi io non vado mai oltre il mio bilancio familiare. Credo che debbano farsene la ragione anche i tifosi, non si possono segnare gli e scelte. Allora perché ti prendi una moglie che vuole la pelliccia e il diamante ogni volta a Natale? Perché? Perché è giusto che sia così, che Benitez intanto non rappresenta una moglie così dispendiosa, l'ha dimostrato l'anno scorso con Calleion e Mertens. Higuain era una conseguenza inevitabile della cessione di Cavani, onestamente, ed era anche, come dire, quel profilo elevatissimo per dare ulteriore spessore tecnico alla squadra. Ora il Napoli deve fare i conti, non dico quelli della serva, ma quelli con il proprio bilancio, che sono legati direttamente alla Champions, ai proventi della televisione e a quel poco che oramai lasciano i botteghini. Io credo che De Laurentiis sia stato, come dire, tempestivamente strategico. Mancano 6 mesi al 30 giugno, tra i due c'è un grande rapporto, al di là di quello che può essere la frase di ieri, che non sa di out-out ma sa di esortazione. Ci sarà il tempo e il modo per parlarne. Non credo che Benitez in questo momento sia lontanissimo dal Napoli, non credo neanche che sia vicinissimo, onestamente. Penso che sia vivendo la sua pausa di riflessione, nella quale entrano necessariamente anche altri aspetti non calcistici, in primis la famiglia. Ti convince Pierluigi il disegno? Guarda, sono stato bravo? Mi convince a prescindere, no, a parte tutto, mi sembra una ricostruzione assolutamente plausibile, insomma. Qualcosa deve... Però ecco, ribadisco, lì i colpi di scena sono sempre in agguato con De Laurentiis, insomma, lui ha un senso teatrale, se preferite cinematografico, della vita. Insomma, io mi ricordo le discussioni con Mazzarri, che erano discussioni infinite. Non è che il primo anno che sono entrati in collisione Mazzarri e De Laurentiis se n'è andato, no? Antonio, correggimi se sbaglio. Quindi i colpi di scena... No, anche il secondo anno stava andando alla Juve, Mazzarri, ti ricorderai, no? Andava alla Juve, Insomma, voglio dire, è una lunga, it's a long way to Tipperary, dicono gli inglesi, è una strada lunga. È chiaro che De Laurentiis è soprattutto poi De Laurentiis è esattamente come Ferrero, esattamente come Cassano, esattamente come gli uomini di spettacolo, secondo me in certe circostanze un po' si eccita con la luce dei riflettori, certo. Infatti è stato zitto fin troppo, ma sì, ma il gusto della battuta, che è una cosa che io conosco benissimo, perché nel mio piccolo ce l'ho anch'io, no? La voglia di dire la frase in più, non è da questo punto di vista la comunicazione dei Laurenti, secondo me deve essere letta con questa logica, cioè che non è esattamente tutte le volte un comunicato ufficiale e una presa di posizione definitiva, è anche la voglia di regalare spettacolo. Devo dire che la conferenza stampa di ieri è stata molto divertente, molto divertente e molto brillante, perché nelle corde di un personaggio sicuramente divertente, insomma, che sa essere davvero molto piacevole. E quindi io un po' di tara la farei. Stasera credo sia importante anche quello che accadrà in futuro, anche perché mi ricordo che nel 2010 Benitez vinse una coppa più o meno dalle parti di Doha e poi andò a finire malissimo. Si fermò lì, andò alle Maldive. Grazie Pier, ci sentiamo. Chi è stasera Tiki Taka? Ma stasera facciamo tutto Napoli-Juve, una lunga intervista a Bonolis, praticamente con tutta la sua vita, opere, Inter in mezzo, abbiamo Belen, abbiamo la Casalegno, abbiamo Mughini, Auriemma, di tutto e di più, poi ci colleghiamo con Doha, c'è Alessio Conte, facciamo veramente una cosa di altissimo livello. Ciao Pier. Cerchiamo anche di fare dei titoli che piacciono a tutti. richiedo scusa a nome di tutti per la chiatica. Vi voglio Dai, grazie Pierluigi. Ciao Antonio. Impossibile non voler bene a Pardo. Impossibile, ragazzi. Antonio, ma quando Higuain la smette di fare i capricci? Quando vince la Supercoppa. E poi quando resta in corsa per il terzo / secondo posto, lui ha bisogno di grandi motivazioni. Ho capito, ha bisogno di un leader anche quando le cose non vanno male. Ma devo dire, nessuno gli ha chiesto, cioè nessuno lo obbliga ad esserlo. Se non ce l'hai, ragazzo mio, non puoi inventartelo. Bravo. Senza citare Don Abbondio, lui è un grandissimo calciatore, ma nel leader non c'è. Nel Napoli ce n'era uno solo e non c'è più. Però pazienza, il calcio continua e anche la vita. Un altro Reina è difficile da inventarlo. Grazie Antonio, buon lavoro. Grazie a voi, ciao. buon Natale Antonio Giordano. Bruno da Milano, mi aspetti lì perché adesso abbiamo Bet Corner, abbiamo il GR, ma subito dopo torniamo. Non vada via, è 800 24 00 24, il numero verde. Io salto Juventino, sì, Juventino tu. E pronostici. Va in scena a Doha alle 18.30 l'ennesimo capitolo della sfida infinita tra Juve e Napoli con vista sulla Supercoppa italiana. Vediamo assieme le quote SNAI per questa partita. L'1, la vittoria della Juventus che è favorita, è quotata 1.90, X a 3.35, 2 invece con il successo del Napoli, quotato 4.25, gol per questa partita quotato 1.73, no gol, quotato 2. È possibile anche indovinare il nome del primo marcatore della gara tra Juventus e Napoli. Tevez nella Juventus è quotato 4.50, Llorente 6.50, Vidal 9, Morata quotato 10, Higuain nel Napoli è quotato 7.50, Amsic 10, Calleioni e Mertens sono quotati 12. In campo questa sera pure la Premier League con alle 21 la sfida tra Stoke City e Chelsea. L'1, la vittoria dello Stoke è quotata 6, X a 3.85, 2 invece con la vittoria dei Blues quotata 1.57. Questa era l'ultima delle quote SNAI di oggi, noi ci risentiamo domani. Uno, due, tre. Tutti convocati. Terzultimo posto, 12 punti alla vigilia di Natale non bastano. Zeman esonerato dal Cagliari, lo scrive Carlo Laudiso sul sito della Gazzetta, le voci rimbalzano da Cagliari, sta per arrivare all'ufficialità, si pensa a Zola, dunque Zeman non funziona a A Cagliari non funziona per questa squadra, non funziona per questa classifica, certamente non ha funzionato con la Juventus, certamente non ha funzionato tra le mura interne dove non ha mai vinto, e dunque il sogno, l'utopia o quello che volete, tutte queste cose legate a Zeman tramontano a Cagliari all'alba, alla vigilia di Natale. Bruno da Milano, buongiorno, grazie. Ciao, ciao. Ciao. Ma facevo due considerazioni, se è possibile. Sì. Sul Napoli io credo che De Laurentiis tanto di cappello. Secondo me ha cercato il colpo golpo, venduto Cavani con Higuaín, non gli è andata bene. Avrei scelto un allenatore tipo Simeone per cercare comunque di avvicinare le prime. Sull'Inter di Mazzarri, Simeone in questo momento non era poca roba, eh? No, non Simeone, uno con quel tipo di profilo, per cercare comunque, pur non avendo grandissimi budget a disposizione, di fare un certo tipo di campionato. Benitez mi sembra un po' più abituato, come dire, a spendere, no? Vedi Liverpool, cioè mi serve un giocatore da 20 milioni, lo compro, ecco. Con De Laurentiis questo tipo di processo l'han tentato, venduto Cavani. Sì. Secondo me non è andata bene lì, se gli andava bene, che magari andava lì a quarti, agli ottavi. Sì, no, ma è un po' quello che penso anch'io, Bruno. È un po' quello che penso anch'io. Cioè, un allenatore come Benitez è uno che arriva lì e dice: ok, faccio allenatore manager all'inglese. Poi bisogna. Possiamo discutere su quanto credito possa ancora avere Benitez, perché gli anni di Valencia a Liverpool sono passati. È vero che ha fatto molto bene al Chelsea, ma preso in corse con una squadra non sua. All'Inter ha fallito, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi. Credo che intendiamoci bene, il valore assoluto di Benitez allenatore e manager non sia quello della Champions League alzata con il Liverpool. Quindi, io credo che sia comunque un giocatore che ha bisogno di soldi. Ma tutti noi, cioè, voglio dire, vogliamo tutti noi vorremmo avere un principale che ok, adesso ho bisogno un 100.000, me li dai perché ho bisogno di investire. Insomma. Se posso un commento sull'Inter invece, sì. Credo che Mazzarri abbia pagato lo scotto come ha pagato Allegri 2 anni fa quando è stato suonato dal Milan, cioè a un certo punto ha gestito male anche i media e si è tirato dietro una valanga. C'è una differenza abbastanza rilevante: Allegri uno scudetto con il Milan l'ha vinto. Tu mi dirai, aveva Thiago Silva e Ibrahimovic, io ti rispondo, sì, va bene, Thiago Silva e Ibrahimovic, però lo scudetto lo devi vincere. Ha fatto una seconda stagione in cui ha perso lo scudetto con la Juventus nel modo che conosciamo, ed è stata la sua peggiore al Milan. La terza stagione al Milan è stata a parer mio la migliore di Allegri nel rapporto qualità-prezzo, quindi con la squadra che aveva ha fatto un grandissimo campionato. Però evidentemente si era spezzato quel feeling che c'era con la proprietà, se mai è esistito quel feeling, perché Allegri e Berlusconi non si sono mai presi più di tanto. Però non penso sia proponibile un paragone tra Allegri e Mazzarri. Mazzarri non è mai stato un drago della comunicazione. Allegri è uno che con i microfoni ci sa anche fare, poi è uno molto scaltro e molto furbo, però penso che la posizione dei due fosse profondamente diversa, ed è per questo che non secondo me non regge un parallelo, un paragone tra la situazione di Allegri e quella di Mazzarri. Mazzarri non è mai stato gradito alla tifoseria, sappiamo come l'Inter abbia una tifoseria, una piazza, un ambiente, una tifoseria VIP, ci sia molta gente che ha grande influenza sulle scelte che poi vengono fatte dalla società, e l'abbiamo imparato nel corso di molte stagioni, ma basta ascoltare Moratti anche oggi per rendersi conto di come questo discorso non sia poi tanto lontano dalla verità. Poi non ci scordiamo che siamo in emergenza, i ragazzi era prevedibile che un po' calassero, comincia anche a piovere tutto. Zeman nella massima serie, licenziato dal Cagliari, nella massima serie di Serie A non riesce a terminare una stagione dal 2005. Siamo alla fine del 2014, quando alla guida del Lecce arrivò all'11° posto. Luca Calamai, Gazzetta dello Sport, buongiorno. Ciao Luca. Ciao, buongiorno a tutti. Partirei da questa di cronaca. io non sono uno zemaniano, non lo sono mai stato, secondo me è un allenatore visionario, rivoluzionario, divertente, molto furbo, come disse Vialli un giorno a questi microfoni, un po' paraculo. Ora non gli è riuscita nemmeno l'avventura a Cagliari, ma certamente un'altra panchina la troverà. Ma guarda, io provocatoriamente ho sempre detto che se io fossi una delle più grandi società d'Italia, io pagherei 1 milione l'anno di ingaggio a Zeman e gli affiderei la gestione del settore giovanile. Uh-huh. Perché secondo me non esiste allenatore in grado di produrre valore tecnico e di conseguenza anche economico di Zeman. Quindi te pensa a ripercorrere la sua carriera e immagini quanto ha fatto guadagnare e quanto sostanzialmente poco ha sempre fatto spendere. Ma al di là di questo, interessa quanto ha fatto guadagnare, quanto ha creato, tridenti d'attacco dai tempi di Signori Baiano a Rambaudi. A Rambaudi, a Immobile e il ragazzo di Napoli, insomma, Immobile, Insigne, certo. Quindi lui ha questa straordinaria capacità. Il problema è che è un grande maestro di calcio, ma è un maestro di calcio che finisce per essere ucciso dalla sua visione zemaniana, proprio in questo termine possiamo dire, del calcio. Ecco, allora, dare una squadra che vuole salvarsi a Zeman in Serie A, secondo me è un non senso. Uh-huh. È un non senso perché è un errore in essere. A Zeman gli dai Real Madrid, se vuoi. Sì, gli è andato anche la Roma 2 anni fa, che poi ha preso Garcia e ha fatto quello che ha fatto. Non, esatto, anche cioè, lì non pervenuto, però. Ma mai gli puoi dare una squadra che per salvarsi ha bisogno di speculare sul calcio. Per lui speculare sul calcio sarebbe un gesto di violenza che non potrebbe mai tollerare. Però credimi, al di là quindi del fatto che io non gli darei mai una squadra di questo tipo, io credo che invece per quello che ci ha regalato anche recentemente, e ormai non è più giovanissimo, Insigne, Immobile ce l'abbiamo sotto gli occhi, ma potrei dirti anche Verratti, solo per quello che ci ha regalato nel giro degli ultimi anni, secondo me dovrebbe essere difeso e valorizzato nelle sue doti. Ecco, invece gli si chiede di fare delle cose, come a uno che cucina pesce gli si chiede di cucinare carne, lo sa fare. Sì. Senti, non credo che il Premier si sia divertito tanto invece ieri al derby di Toscana. No, guarda, il problema della Fiorentina si può riassumere in questo concetto. È una squadra costruita intorno a 3 giocatori che sono Rossi, Gomez e Cuadrado. Rossi non l'ha mai avuto, Gomez è come se non l'avesse mai avuto. Cuadrado vive ancora della crisi di identità di un giocatore che gli hanno detto che vale 40 milioni, che lo voleva tutto il mondo e che in realtà si trova a dover dimostrare di essere ancora un giocatore importante, quindi è in uno stato confusionale. Senza 3 giocatori determinanti, l'ABC del vocabolario della Fiorentina, la Fiorentina comunque arriva a Natale a 3 punti dalla zona Champions, che è poi il suo obiettivo primario. Quindi credo che in questo caso bisogna riconoscere a Montella, che pure ha commesso qualche errore, la capacità di essersi inventato qualcosa, e credo che la Fiorentina però abbia preso coscienza, sa benissimo che se non recupera qualcuno di questi 3 ai massimi livelli difficilmente potrà arrivare terzo. Sì, però la classifica è talmente liquida, guarda, che basterebbero 3 vittorie, come piace dire a mio amico Pardo, che basterebbero 3 vittorie di fila da parte di una delle aspiranti al terzo posto per scrivere quasi un'ipoteca. Nessuno ha la forza, sembra avere la forza di prendere in mano la situazione. Sono tutte squadre difettose. Sì. Ognuna per maniere, motivi diversi, ma sono tutte o difettose, incomplete o sbagliaticce o problematiche o che vivono il sogno, tipo quelle delle squadre di Genova. Non c'è una squadra solida, non c'è una squadra su quale oggi io mi sento di dire questa arriva fino in fondo. Io sinceramente questa scommessa non la farei su nessuno. Neanche sul Napoli. No, il Napoli aveva trovato un po' la sua quadratura ed è fatto male Insigne. Insigne è strutturale, perché Insigne, certo, come dicono gli allenatori che parlano bene, è un giocatore che vale per 2, perché fa la fase di copertura, certo, e la fase offensiva. Certo. Lui e il primo, il Sharavi, sono pochissimi in Italia che fanno questo lavoro. Perdi questo giocatore insostituibile, il Napoli prova con Gabbiadini, però la sensazione è che dall'eliminazione estiva e quindi dal fallito zona Champions ci si è inclinato un qualcosa nel rapporto tra De Laurentiis e Benitez e Higuain. Hai l'aria della fine di un ciclo guardando il Napoli, e quindi o succede uno scatto d'orgoglio che può essere figlio solo dei risultati, oppure anche loro sono difettosi. E guarda, questa sensazione di aria di fine ciclo ce l'ho anche per quanto riguarda Fiorentina, Luca. Fiorentina, ripeto, cos'è la Fiorentina? Te l'ho appena detto, cioè, se torna Rossi... Ma con Montella è una storia che continuerà? Ripeto, la domanda è, te la rigiro, non lo sa nessuno, nel senso che se torna Rossi, già la Fiorentina recupera un giocatore determinante. Gomez ieri ha avuto due palloni da Gomez, ha preso un palo e sull'altra azione il portiere ha fatto un miracolo. È chiaramente un problema psicologico, non un problema tecnico, e quindi i problemi psicologici sono complicati ma anche risolvibili, mentre i problemi di salute e i problemi tecnici sono irrecuperabili, quindi è ritrovabile. I Della Valle hanno appena messo 20 milioni per ricapitalizzare, anzi quasi 25 per ricapitalizzare la società, e pensano a una nuova cittadella, quindi vuol dire che hanno la volontà di investire. Io non so se i protagonisti saranno sempre gli stessi, ma sinceramente in un calcio con pochi soldi e poche idee mi sembra che l'idea della Fiorentina sia ancora importante. Luca, un'ultima cosa, ti sei fatto un'idea su quali siano i problemi in questo momento, o su quale possa essere il malessere della Roma in questo momento? Solo una questione di organico corto, di fatica da di stress da Champions League, da stagione, oppure Garcia è un po' prigioniero delle bandiere Totti e De Rossi, oppure che cos'altro? Guarda, io rivedo nella Roma le problematiche che ha avuto la Fiorentina tra il primo anno senza Coppa e il secondo anno. Cioè, due anni fa la Fiorentina giocava il calcio più bello d'Italia, sì. Non aveva Coppa, lavoravi una settimana per preparare una partita, una delizia. L'anno scorso la Roma ha giocato il calcio più bello del campionato, non aveva Coppa, lavorava la partita una settimana, fantastici. Sono due squadre che sono rimaste con quell'idea, non capendo che giocando ogni tre giorni devi avere anche la capacità di fare un calcio diverso, magari meno spettacolare, più concreto. La Roma è una squadra che deve giocare bene per vincere, è prigioniera della sua bellezza, e oggi è complicato tutto questo, no? Cioè non è semplice, perché poi il campionato italiano tutti dicono è brutto, modesto, però è rognoso, perché se trovi un Empoli che c'ha 11 ragazzini ma messi bene in campo, che corrono tutti, se te non corri quanto loro e metti sulla bilancia la tua differenza di valori, vai in sofferenza, giusto? Uh-huh. E allora questo è il problema della Roma, non ha trovato la soluzione per vincere le partite semplici, uh-huh, in maniera semplice. Non riesce a vivere questo, normalmente, insomma. Esatto, detto questo ti faccio solo una riflessione: il calendario in generale di ritorno proporrà Roma-Juventus. Sostanzialmente oggi la differenza in classifica è nata dallo scontro diretto, quindi non è che stiamo parlando di una squadra in difficoltà, stiamo parlando di una squadra che tra l'altro ha speso molto più della Juve, perché vuoi mettere a giocare due volte Roma-Bayern Monaco invece che Juventus-Malmo, vuoi mettere a giocare due volte Roma-Manchester City invece che Juventus-Olympiacos, insomma c'è un fatto di stress mentale. Che insomma, cioè, ma guarda, io che ne dicano tutti, io penso che quella partita, quel 7-1 con il Bayern di Monaco, la Roma lo abbia pagato anche troppo salato, cioè perché ha tolto alla squadra una gran parte della sua autostima. Bravo, e quindi da quella partita qualcosa è cambiato, più che dalla partita con la Juventus, Non c'è dubbio, gli ha tolto la spocchia dei forti. Bravo, la spocchia dei forti. Dentro quella paura che il dubbio in tante situazioni, il dubbio di non essere così forti. Ma pensa, nemmeno la sconfitta con la Juve, perché la sconfitta con la Juve è stata rielaborata come un furto, per cui non conta, no? Te sei convinto di aver subito, probabilmente ne hanno anche qualche buon motivo, di aver subito un torto, per cui lo rimuovi lì, proprio è come quello, i due pugili che dicono vabbè, vediamo chi picchia di più, e lì ti hanno steso al primo cazzotto, ma non ti sei più rialzato, capito? E allora la volta dopo stai più in guardia. E invece la Roma bella è quella che ti prendeva di petto a 100 all'ora. Certamente, certamente. Grazie Luca. Un grazie, abbraccio, un abbraccio, buon anno. Buon anno, buon Natale, buon anno. Grazie Luca Calamai. Torniamo a parlare con gli ascoltatori, un grande piacere. 800 24 00 24. C'è Daniele da Bologna, tifoso juventino, che non manca di lanciare una freccetta avvelenata nei confronti di Zeman, che scrive: Daniele ha raggiunto la prima stella, decimo esonero. Vanes, Reggio Emilia, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Dica. Volevo tornare sul discorso Balotelli. Io ieri sera allo stadio, è stato giustamente fischiato Balotelli, a mio parere, perché fondamentalmente si tratta, non vogliamo negarcelo, voi siete legati da etica, discorsi del genere, noi tifosi no, Questo ragazzo è proprio. Cioè, aspetti, facciamo chiarezza: è stato fischiato, cioè è stato contestato, diciamo, in contumacia dai tifosi dell'Inter. L'idea Balotelli è stata contestata in contumacia dai tifosi dell'Inter. Stiamo parlando di questo, no? Perfetto, esatto, di questo. E siccome era lo stadio e siccome so benissimo l'umore della piazza, lui è stato fischiato perché è profondamente una persona maleducata, profondamente è stato pesantemente contestato per un discorso di attesamenti che è provocatori, continuamente, reiteratamente provocatori, che nemmeno i numeri, i top player possono permettersi di tenere. Ha capito? È un giocatore assolutamente inguaribile sotto questo punto di vista del comportamento, è assolutamente ingestibile. Quindi la piazza di Milano ieri sera lo ha assolutamente bocciato. Sì. Ma lei non trova che la piazza di Milano sia un po' troppo pesante, che la piazza di Milano, sponda nerazzurra, prenda un po' troppe decisioni? Se Mancini dovesse dire no, Balotelli, io è un giocatore che ho allenato, che mi sento di avere, che può essere funzionale al mio progetto, allora non lo può prendere perché la piazza di Milano non lo vuole, così? No, la piazza di Milano esprime un parere, poi la società ovviamente, la società ci mette del suo, Mancini ci mette la faccia, tutto quello che vuole. Il problema è che noi, secondo me, a Milano attualmente abbiamo tanti altri problemi, non possiamo accollarci anche il problema di fare da assistenti sociali. Mi spiego? È tutto chiaro, cioè, quello che per me è un po' più difficile da capire è il peso specifico che la tifoseria interista, che l'ambiente interista ha nelle decisioni della società, perché solo negli ultimi, da quando c'è Toir, cioè da dopo più di un anno, abbiamo visto uno scambio saltato Vucinic-Guarin perché la tifoseria non voleva. Posso andare anche a prima, cioè l'episodio precedente, quello di Stankovic alla Juventus, la tifoseria non voleva. Mazzarri non lo sopportava nessuno e veniva fischiato da tutto lo stadio, soprattutto dalla tribuna rossa, cioè dalla tribuna VIP, ma no, veniva sostenuto dalla curva. E allora è stato mandato via Mazzarri, a prescindere dai risultati, perché se fosse una questione di risultati non vedo perché oggi dovremmo essere qui a difendere Mancini, che ha fatto 5 punti in 5 partite, ieri sera ha pareggiato con grande fortuna. Allora, mandato via Mazzarri, preso Mancini, che costa un mucchio di soldi, che adesso giustamente chiederà giocatori, che è un'ottima scelta perché è un grande allenatore, un allenatore di respiro internazionale, quello che vogliamo, però in questo momento l'Inter probabilmente aveva altre idee per la testa. Allora mi domando se è giusto, corretto, è fisiologico, è normale che una piazza, un ambiente, un insieme di salotti eccetera siano così tanto importanti, così tanto, e abbiano un peso specifico così elevato nelle scelte di un club. Semplicemente questo. Poi se sappiamo benissimo che non c'era bisogno della manifestazione di piazza di ieri sera, non c'era bisogno di quello per capire che i tifosi dell'Inter Balotelli non lo vogliono e che l'Inter non può prendere Balotelli nemmeno se Mancini lo domanda, perché i tifosi non lo vogliono. Punto. Semplicemente questo. Antonio, provincia di Treviso, buongiorno. Buongiorno, grazie di essere convocato. Grazie a lei, dica. Che trasmissione è questa intanto? questa la sapevo. No, niente, due considerazioni. Intanto sono proprio molto d'accordo su quello che ha detto adesso sull'Inter, su Mancini, su Mazzarri e sulla tifoseria interista. Io sono milanista e diciamo da questo lato non è che siamo proprio meglio, però insomma ci comportiamo un po' differentemente. Non è questione di meglio o peggio, Antonio, capiamoci, cioè, è una questione diversa, cioè l'Inter è un ambiente molto particolare in cui c'è una parte dello stadio, una parte della tifoseria, poi ci sono i tifosi illustri che hanno un loro peso o che ce l'hanno sempre avuto comunque nell'era di Moratti ha sempre ascoltato tutte queste campane ed è inutile nasconderlo, no? E quindi la società, poi è Moratti stesso a dire no, la società appartiene ai tifosi, no, la società appartiene a chi ci mette il grano, e i tifosi dovrebbero fare i tifosi, se apprezzano la squadra, lo spettacolo eccetera vanno a vederla, se non apprezzano eccetera stanno a casa e magari contestano al bar. Questa è, oppure vanno allo stadio con te, insomma facciano quello che vogliono, ma non esiste che abbiano un peso specifico così rilevante nelle decisioni di un club. Questo è quello che dico. Sì, però mi permetta una cosa. Sì. Le decisioni rilevanti dei tifosi o dei giocatori stessi da quando esiste il calcio ci sono sempre state. Riva non è voluto andare alla Juve, non è voluto andare all'Inter. Non... Però questo era Riva. Esatto, è stata la sua scelta. Cioè, sì. Perché in questi anni di crisi, ma di profonda crisi, ma io non dico solo calcistica, che alla fine il calcio ancora è una cosa che si tiene in piedi da sé, diciamo, tra virgolette, è una cosa più credibile di un'azienda con 200 operai che sta per andare in malora. E dico una cosa, ma perché non ci ridimensioniamo tutti? Cioè, un tetto ingaggi basso, chi vuole venire in Italia viene, se no, come diceva il suo collega là prima, che non ricordo più, mi sembra Calamai. Investiamo su gente come Zeman che lavora sui giovani, e quindi abbiamo di giovani che giocano al calcio, e ne abbiamo, non è che siamo inferiori all'Inghilterra, alla Spagna. I giovani che giocano al calcio ce ne sono sempre di meno, ma no, poi questa è un'idea molto intelligente. Però, allora intendiamoci, io non sono zemaniano, per i motivi che ho già detto, inutile che stia... Ma neanch'io non sono zemaniano. Esatto, però l'idea di Luca Calamai, prendiamo Zeman per farlo lavorare sul campo, non di facciata, non per metterlo sui giornali, non per farsi la pubblicità, se lui accetta naturalmente, non credo che accetterebbe, non credo. Facciamolo lavorare con una squadra primavera, ma sul campo. Allora, questa secondo me sarebbe una grandissima idea, un'idea lungimirante, un'idea rivoluzionaria, questo sì lo sarebbe. Poi non so chi è in grado oggi o chi ha voglia di spendere i soldi dell'ingaggio di Zeman per farlo lavorare sulla primavera, non so chi ne ha voglia e chi ne ha la possibilità, però questa sarebbe davvero una grandissima idea. Detto questo, il resto non saprei, nel senso che giovani che giocano a calcio in Italia ce ne sono sempre di meno, e questo è quanto. Tanto mi segnala Franco Piantanida dalla redazione che il Genoa ha concluso l'acquisto del centrocampista argentino dello Spartak Mosca Tino Costa, ex Valencia, classe 85, trequartista ma anche mediano. Non andrà mica via l'argentino Perotti che molti vogliono. Ciao Ilaria, un po' che la palla a Madano, se ne ho messa. Ho voluto unire due forze che sono simili. Cinema, calcio, cultura. E questo è il sale della vita. Forza Sampdoria. Ne la faccio più. Allora, il suo primo Natale da presidente della Sampdoria è un augurio ai tifosi della Sampdoria che insomma chiudono bene questa. Io non lo faccio solo ai tifosi della Sampdoria, lo voglio fare a tutti gli italiani e voglio dire solo una cosa, che io voglio un calcio che sia un calcio allegro, che sia un calcio senza barriere, che sia un calcio di divertimento, in entertainment, altrimenti questo calcio è fatto solo di insulti a quello, a quest'altro, a chi che sia. Per cui voglio dire, sono fuori dal recinto e sto parlando da cittadino italiano, voglio dire a tutti quanti grazie di avermi accolto in questo mondo meraviglioso, grazie a tutti gli italiani, e viva il calcio, e viva lo sport, e buon Natale a tutti quanti. Possono deferirmi, ma non mi possono, da cittadino, togliere il pensiero. Mi hanno umiliato dandomi del razzista. Sono una persona che viene dal nulla e morirà nel nulla. Tanti auguri a tutti, grazie, viva lo sport e viva il calcio. E sempre viva Sampdoria, sempre. Ciao Grozza. Questo è il messaggio natalizio, le uniche parole pronunciate ieri dal presidente della Sampdoria Ferrero. A reti unificate, questo è il messaggio natalizio di Sua Maestà Ferrero. Maurizio, Roma, buongiorno. Maurizio, buongiorno. Si è spaventato. Antonio, della provincia di Treviso, abbiamo fatto prima. Luca Cesena, buongiorno. Sono qua. Ciao Carlo. Ciao. Mi attacco alle parole di Ferrero. Di Ferrero, volevo dirti questo. Allora, io sabato ero a Reggio Emilio a vedere Sassuolo Cesena, perché non ho visto un fico secco. A immaginare Sassuolo Cesena. Sì. A immaginarlo. Sì. E perché la verità può capitare a dicembre di non vedere una partita a causa nebbia, se magari la giochi due ore prima è più facile che non ci sia. Però riattaccandomi a quello che diceva Ferrero, un calcio fatto di spensieratezza, gioia, vi dicendo, allora quando si siedono al tavolo i signori della Lega con chi ci mette il grano, come dici tu, cioè quelli di Sky, mi piacerebbe che ci fosse un minimo di dibattito, perché io ho sempre l'impressione che invece funzioni, voi giocate quando lo diciamo noi e, quando, e dove lo diciamo noi. Zitti e pedalare, sì sì. E non lo so, se oggi pomeriggio, se domenica non si gioca a partita di Serie B, tanto per dirti, e viene recuperata quando? Se è un mercoledì che ci sono le coppe, la giocano alle 4 del pomeriggio di un giorno feriale. E perché? Spiegamelo a te, da utente mi cascono le braccia, non so che cosa dirti. Vi ascolto sempre perché siete fortissimi. Grazie, grazie Luca. No, ma non è che c'è molto da aggiungere. Cioè, è chiaro che la televisione è quella che ci mette i soldi. Senza i soldi della televisione non si può andare da nessuna parte. Dunque la televisione decide come, dove e quando le partite devono essere giocate. E non giusto, sbagliato, bello, brutto che sia, è così. Cioè, questa è la realtà. E d'altra parte, non da ora e non solo qui, le televisioni sono quelle che pilotano l'evento calcio, che pilotano il calendario, che pilotano i campionati. Quindi non resta che, cioè è inutile, non vedremo mai più tutta la giornata di campionato giocata come piaceva a quelli di un tempo, la domenica alle 14:30, alle 15 d'estate, eccetera, perché non è così. In tutto il mondo, in tutta Europa, in tutti i principali campionati, sono le televisioni che mettono i quattrini e le televisioni che decidono dove, come e quando si gioca a pallone. Maurizio, Roma, buongiorno. No, io volevo fare solo una cosa. Il vostro collega ha parlato dell'arroganza dei forti, della strafottenza dei forti. Io credo che la Roma invece la debba smettere di essere arrogante ed essere più sportiva. Io personalmente non la vedo proprio così penalizzata dagli arbitri, mi sembra che Mancini sia stato mandato fuori, Colantuono era piuttosto seccato, qualche altro allenatore ce l'aveva, diciamo non è che la Roma è penalizzata, tutt'altro, anche oggi il Corriere della Sera la dipinge come una che è bersagliata, a me non sembra proprio, allora no, diciamo che Maurizio, mi sembra che la Roma non abbia moltissimo di cui lamentarsi per quanto riguarda la direzione delle ultime partite, col Sassuolo, a Genova con il Genoa, con il Milan c'era un rigore che poteva essere dato, ma era un rigore molto televisivo, quel fallo di mano di De Jong. Non mi è piaciuta l'espulsione, a mio avviso un po' pilotata dai giocatori della Roma, di Armero, perché era tecnicamente espulsione, ma Rizzoli non mi sembrava avesse quell'idea. Invece la stessa Roma ha denunciato come la Juventus abbia una strategia molto precisa con i suoi principali giocatori, Chiellini, Vidal, Bonucci, eccetera, che vanno a fare, sono il gruppo di pressione sull'arbitro, eccetera. Beh, la Roma ha imparato benissimo, perché anche la Roma ha il suo gruppo di pressione che è andato ad operare su Rizzoli dicendo: ehi, questo va espulso, questo fuori, Armero fuori, ha preso la palla con le mani. Morale, tolto tutto questo, non mi sembra che la Roma nelle ultime partite abbia di che lamentarsi con gli arbitri, nei confronti delle direzioni arbitrali che ha avuto. Però le lamentele di Garcia soprattutto fanno parte di una chiara, precisa strategia di gioco di gioco in senso ampio nei confronti dei competitors, cioè della Juventus. Ma è qualcosa di normale, eh? L'abbiamo visto con Mourinho, lo continuiamo a vedere con Mourinho in Inghilterra, l'abbiamo visto con Ferguson, l'abbiamo visto con Wenger. Molti allenatori in ogni parte del mondo operano con i media, con la comunicazione in questa direzione, cioè il senso, lo scopo qual è? Quello di mettere pressione sugli avversari e su chi va a dirigere le partite degli avversari. È una strategia molto lineare questa seguita dalla Roma. Ci fermiamo, adesso c'è la borsa, poi torniamo. Matteo da Modena, 800 24 00 24, numero verde. Ma tutti convocati. Dunque, Dunque, c'è Daniele da Treviso che mi manda questo messaggio: in Inghilterra meno della metà delle partite sono trasmesse in TV, la sera si gioca solo lunedì, le squadre inglesi non sono così povere. No, allora in Inghilterra c'è il Monday Night, tradizionalmente si gioca Natale, Santo Stefano, ogni festa comandata, come è giusto che sia secondo me, e non vedo per quale ragione nei momenti in cui le persone hanno più voglia o più tempo, più possibilità di andare allo stadio, magari di vedere uno spettacolo invece di andare al cinema, a teatro, non si debba giocare nelle vacanze di Natale, magari fermiamoci a gennaio se proprio c'è esigenza di salvaguardare i muscoli. Ebbene, in Inghilterra ci sono come da noi le giornate di campionato estremamente spezzettate, quindi comincia sabato l'ora di pranzo, poi sabato pomeriggio, poi la differenza vera è che la partita serale non avviene all'ora di cena ma nel tardo pomeriggio. Evidentemente in Italia, per una questione di gusti, si fanno delle scelte diverse, ma non mi sembra ci siano tutte queste differenze nella ingerenza delle TV, nella compilazione dei calendari in Inghilterra rispetto all'Italia. Anche lì la Premier League è ligia alle esigenze di Sua Maestà Televisione. Matteo Modena, buongiorno. Sì, salve, mi riallacciavo a quello che diceva prima il radioascoltatore su Ballotelli. Diciamo, spero che Mancini non sia così, tra virgolette, pazzo da riprendersi in casa una bomba come Ballotelli, perché finirebbe come Mazzarri, fischiato tutte le domeniche. Inoltre Ballotelli sono 4 anni che ormai non fa più la differenza da nessuna parte, quindi i calciatori come lui ce ne sono veramente tantissimi ormai. Quindi sarebbero 3 passi indietro, tutto qua. Sì, ma Mancini non credo che si prenda Balotelli. L'unica, io non discuto neanche l'idea Balotelli, l'opportunità di prendere Balotelli, l'utilità che questo giocatore potrebbe avere per l'Inter. Quello che io discuto è lo ripeto per l'ultima volta, però, perché poi diventa estremamente noioso, è il peso specifico che l'opinione pubblica nerazzurra ha sulle scelte dell'allenatore, della società, che è praticamente determinante. È chiaro che tutti all'Inter sanno che Balotelli è off limits e nessuno si sognerà, Mancini compreso, di andare a prendere Balotelli, perché non conviene dal punto di vista delle pubbliche relazioni, non tanto dal punto di vista calcistico. Allora, vorrei, poi vi faccio sentire una cosa divertente che piacerà molto ai tifosi dell'Inter che odiano Balotelli. Vi faccio sentire una cosa che ha detto Mourinho su questo giocatore. Però prima di questo voglio farvi sentire Federico Pellegrino, meglio di Federica Pellegrini. Perché? Perché Federico Pellegrino ha riportato, dopo una montagna di anni, lo sci di fondo italiano a vincere una tappa di Coppa del Mondo. L'ultima volta era stata nel 2010, è accaduto ieri a Davos. Dunque, Federico Pellegrino, anni 24, valdostano, per un giorno, per una domenica, meglio di Federica Pellegrini. Sentiamolo con Dario Ricci. Sono appunto 5 anni che corro in Coppa del Mondo, ce ne ho messi appunto 5 per riuscire a vincere io, e questo sicuramente per me è un grande traguardo, appunto dopo anni di, tra virgolette, gavetta. Quanto pesa questo successo per una squadra italiana che sta vivendo un momento di profonda metamorfosi? Beh, io spero che questo risultato possa solo che essere di buon auspicio per il resto della squadra. Lo sci di fondo sta passando uno dei più brutti momenti, parlando di risultati, degli ultimi non so quanti anni, e spero che io con questa gara, con questa vittoria, possa aver fatto scattare qualcosa nella testa dei miei compagni di squadra, che comunque sia tutti gli anni ce la mettiamo sempre tutta per riuscire a ottenere risultati durante l'inverno. Questo era Federico Pellegrino, che ha riportato lo sci azzurro alla vittoria in Coppa del Mondo di fondo. Adesso, per la gioia di tutti i tifosi dell'Inter che detestano Mario Balotelli, vi faccio sentire cosa ha detto Mourinho. Ha rivelato una conversazione di molti anni fa con Balotelli. I told him to be at 2:00 in my office for a meeting. And he was not there, and when I called him, he went to the Formula One qualification races on a Saturday for the race on the Sunday. And I told him, Mario, I told him, you know, you have to come to my office at 2:00. And he was saying, meetings in your office I can have every day, but to see the Formula One, the Formula One is only once a year in Italy. So this is a funny situation. Obviously, in the moment, it's difficult to accept because we are speaking about top professional football. But a kid of 18, 19 to have one of these naive reactions. Certamente Balotelli non andrà al Chelsea, cosa dite? Avete capito il perfetto inglese di Mourinho? L'ho chiesto un giorno, allenavo l'Inter, eccetera, quindi molti anni fa, Balotelli era un bambino, eccetera, eccetera. Gli ho chiesto di essere alle 2 nel mio ufficio per parlare e alle 2 non c'era, ho alzato il telefono, Mario dove sei? Ma mister, sono a vedere le prove da Formula Monza, a vedere le prove da Formula 1, ma dovevi essere qui a parlare con me di lavoro? Ma noi possiamo parlare tutti i giorni, a Formula 1 c'è una volta a Monza, c'è una volta all'anno. Questa è probabilmente la ragione principale per cui Balotelli non diventerà un grande campione. Simone Sandri, buongiorno. Buongiorno Carlo. Come stai? Molto bene, grazie. Molto bene Simone, stiamo discutendo di Mourinho e Balotelli. Avrai sentito questo divertente retroscena di Mourinho? No, non credo che nell'NBA si comportino così Balotelli, sì, superstar. Noi abbiamo anche noi i Balotelli, si chiama J.R. Smith, il Balotelli dell'NBA, che posta le foto con lui, con ragazze mezze nude, dicendo così si vede una partita NBA, guardando una partita NBA insieme a due ragazze mezze nude. Ah, sì. Questo è il modo migliore per guardare una partita NBA. Ce l'abbiamo anche noi il nostro Balotelli. Ce l'avete anche voi il vostro Balotelli, però è uno che se lo chiamano in ufficio per parlare di lavoro magari si presenta, no? Sì, si presenta, oppure a modo suo, è la caratteristica veramente di Balotelli, perché Smith è un giocatore dall'ego smisurato, ma dal talento pazzesco, che però rimane inespresso proprio per quei limiti caratteriali. Certo. Un bellissimo, secondo me, paragone. No. C'è Franco Piattarina che mi sussurrava nella cuffia: pensa se Berinelli non si presenta nell'ufficio di Greg Popovich dopo convocazione, che cosa succede? Succede che lo viene a prendere a casa la polizia, e gli dice: fai pure le valigie che da domani domani vai da un'altra parte. Esatto, domani ti puoi presentare in ritardo quanto vuoi, ma non agli Senti Simone, stavamo parlando tra l'altro anche di incidenza delle televisioni, delle volontà dei media nello stilare i campionati italiani, il calendario dei campionati italiani di calcio. Sappiamo bene che non è un malcostume italiano questo, ma è un'esigenza dello showbiz di tutto il mondo, no? Tanto che ne abbiamo parlato un sacco di volte. L'NBA manco si sognano di fermarsi per Natale, Pasqua alla Befana, anzi lì ci mettono le partite più significative e questo e nessuno fa una piega, né i tifosi né i giocatori. No, anzi, paradossalmente le festività sono delle ricorrenze particolari sportive, perché il Thanksgiving, la festa di ringraziamento è sinonimo delle grandi partite di NFL, di football. Il Natale invece è una sorta di vero inizio della stagione NBA, perché ci sono gli scontri, sempre sono gli scontri più interessanti proprio il giorno di Natale, e la rete ABC, quindi la rete nazionale della TV, comincia a trasmettere per la prima volta durante l'anno una partita NBA, per cui da un certo punto di vista il vero inizio della regular season viene marcato quasi dal Natale, e anche quest'anno ci sono delle partite veramente belle, tante anche cose interessanti che succederanno a Natale. Sì, come è giusto che sia, peraltro, perché se si tratta di far vedere un grande spettacolo alla gente, lo fai quando la gente è a casa ed è in grado di guardarla in televisione. Simone, ti chiedo un attimo di pazienza, ci fermiamo perché ho il traffico, poi parliamo di dell'ennesima sfiga di Danilo Gallinari, altro infortunio, è rientrato, la vicenda la conoscete, è stato fuori per un anno e mezzo, è rientrato con grande fatica dopo due operazioni, stava cominciando a trovare qualche ritmo all'interno di qualche spazio all'interno dei Denver Nuggets, ovviamente al suo livello, e si è di nuovo fatto male, altro infortunio non così grave, menisco, però nuovo stop ai box per Gallinari. Tutti convocati. Allora, Simone Sandri, 19 punti contro Indiana, miglior prestazione stagionale, un ritorno all'attività agonistica dopo un sacco di tempo, stiamo parlando di Danilo Gallinari, un rientro difficile, anche qualche polemica perché non è riuscito subito a trovare all'interno di Denver lo spazio che aveva in precedenza. Adesso per Danilo altro stop, menisco, non una faccenda così grave, così complicata, ma si parla sempre di un mesetto fuori. Non è una faccenda grave, hai ragione, e soprattutto parliamo del ginocchio destro, quindi non quello operato, che è un grosso sollievo per lui e per i suoi tifosi. Devo dire che veramente il momento è incredibilmente sfortunato, perché hai detto bene tu, stava dopo un inizio difficile nel quale non riusciva a trovare ritmo al tiro, nel quale non riusciva neanche a ricevere un minutaggio importante. Nelle ultime tre partite veramente aveva, come si dice qua, turn the corner, aveva girato l'angolo, sembrava veramente che piano piano stesse tornando il vero Danilo Gallinari, attaccava il canestro con continuità, andava in netta, ha segnato 19 punti contro Indiana, ma anche contro Houston e Clippers nelle ultime due prima di Indiana aveva proprio dato segni di essersi ritrovato, di essere vicino almeno alla sua forma, non dico migliore, ma una forma standard. Questo rallentamento è veramente sfortunato e quando tornerà dovrà ricominciare tutto da capo, dovrà ricompensarsi i minuti in una squadra che sta facendo fatica ma che ha una rotazione molto ampia, per cui non è neanche facile trovare i minuti con continuità per un giocatore che dovrà fermare, dovrà ricominciare tutto da capo. È veramente una situazione sfortunata. Sì, dopo che sei stato fuori per così tanto tempo come ha fatto Gallinari, sarà fatalmente una stagione di rodaggio questa, al termine della quale però bisognerà fare due conti, no? Certo, però se ci pensi doveva essere l'anno scorso la stagione di rodaggio, perché non dimentichiamoci che l'infortunio di Gallinari non è un infortunio di 19 mesi, ma è un infortunio di 8-9 mesi che è diventato poi di 18 mesi per il fatto che si è dovuto rioperare. Per cui agli occhi della dirigenza dei Nuggets la stagione di rodaggio doveva essere quella scorsa. Sì. Per rientrare a metà stagione e quindi questa sarebbe stata la stagione già importante. Invece così è tutto rimandato e anche come dici giustamente tu, adesso diventa questa seconda parte di stagione diventerà un po', come dici tu, una stagione di rodaggio per lui, che è un vero peccato perché vuol dire che allora ci ha messo quasi 3 anni a recuperare pienamente da questa infortuna che è terribile. Tu pensi che a 26 anni sia al momento al dunque della sua carriera? Gallinari quando ha firmato il contratto, il quadriennale che scadrà tra un anno, tra poco più di un anno, era considerato una star in the making, cioè un giocatore potenzialmente che sarebbe potuto diventare uno star per le caratteristiche che aveva. Non dimentichiamoci che in una stagione veramente buona dei Denver Nuggets lui era il miglior realizzatore con quasi 18 punti di media nell'ultimo anno di Carl. Sì. E per cui consideriamo un giocatore che veramente era proprio stava per fare il salto di qualità e tutti nell'NBA pensavano che fosse solo questione di tempo per il suo salto di qualità, e adesso invece deve ricominciare un po' tutto da capo e vediamo quello che succede. È ovviamente un problema soprattutto di testa più che fisico, e deve essere bravo e forte a trovare fiducia al primo punto, ma non è semplice ovviamente. Grazie Simone, grazie a te, auguri a tutti. Grazie, auguri a te e a tutti. Grazie Simone Sandri. Marco da Roma, buongiorno. Buongiorno, molto forma di parlare di basket, ma quello che ho sentito poco fa di un atteggiamento no. Marco, mi spiace, non sento niente. Linea peggio di quella di Pardo, il che è tutto dire. Nino, provincia di Messina, buongiorno. Buongiorno a lei, grazie di avermi convocato. Grazie Nino. Interista da sempre, ascolti, cosa ne pensa lei? Kovacic sarà il Matteus? Tanta roba. No, tanta roba, però insomma, non lo so. Sinceramente non lo so. Allora, il gol di ieri è stata una cosa straordinaria. A prescindere dal gol, io lo seguo da qualche anno, da quando era più ragazzino, ma ha delle giocate, delle visioni di gioco che si vede raramente. Ma non, guardi, l'età gioca certamente dalla sua parte, è molto giovane, che abbia talento non lo discute nessuno, che ieri abbia giocato un'eccellente partita, sei stato il migliore dell'Inter, è così, che possa diventare nuovo Matteus non lo so, a me non sembra che abbia il carattere di Matteus, posso dire la verità, però lo vedi quando va bene la giovane età, però qualche tempo fa la squadra, sì. Ho capito. Sì, certo. Io credo che Kovacic sia innanzitutto un grande valore economico per l'Inter in questo momento, uno dei pochi giocatori che hanno o che possono avere un grande valore di mercato, e questo nel momento che l'Inter sta vivendo è certamente una questione, un fattore molto importante. A 20 anni è un bambinetto, ha grandissimo talento, non riesco a vedere però in lui la faccia cattiva che normalmente i campioni hanno anche quando sono molto giovani. Qualche tempo fa leggevo un corsivo scritto da Mario Sconcerti in cui scriveva proprio a proposito di Kovacic: da quell'area, cioè dall'ex Jugoslavia, sono uscite eccellenti mezze punte, eccellenti mezzali, eccellenti fantasisti, ma mai dei fuoriclasse assoluti. Cioè, onestamente, da quell'area, non è un discorso che ha uno sfondo razziale, è semplicemente una notazione statistica. I due più grandi giocatori in quel ruolo usciti da quell'area sono stati Boban e Savicevic. Boban a 20 anni era il capitano della Dinamo Zagabria, aveva una personalità che spaccava, è venuto in Italia, ha fatto una stagione al Bari e poi la carriera che conoscete. Savicevic era condottiero della Stella Rossa, è venuto al Milan e ha fatto la carriera che conoscete. Non ce ne sono stati moltissimi altri, compresi molto gettonati, Prosineschi, ricordo Stojkovic, ci sono stati giocatori di grandissimo talento della scuola jugoslava, ma nessuno di questi è diventato un crack assoluto. Magari qualcosa vuol dire, magari no, per i tifosi dell'Inter mi auguro che sia soltanto statistica. Marco, abbiamo provato a ricollegarci. Sì, ho cambiato il telefono, era effettivamente quello di Pardo. Era quello di Pardo, perfetto. Adesso è quello di Marco, funziona. Ho sentito parlare di arroganza calcistica da parte della Roma, però io vi chiedo che cosa fareste voi al posto di Garcia se assistesse tutte le domeniche a episodi clamorosi senza poter fare nulla. Mi spiego. Io vado allo stadio, quindi guardo le partite dai distinti sud, che all'Olimpico equivale a guardarle col binocolo da un chilometro. Sì. La porta di De Santis, o meglio di Diego Lopez, è molto lontana. Il fallo di De Jong l'abbiamo visto tutti in distinti sud. Io mi chiedo, e qui vado alle parole di Savecchio, l'uomo che sta accanto alla porta, che è piegato sulle ginocchia, con le mani sulle ginocchia, proteso in avanti, con il volto tutto teso, a circa 1,5 metri da quell'azione, come fa a non vederlo? E come fa il calcio a essere credibile, a continuare ad essere credibile con errori di questo tipo? Tutto qua. Sì, tutto qua, Marco, però non c'è una risposta. L'unica risposta è che l'uomo sulla linea di porta, tutto proteso, eccetera, serve a un fico secco. Tant'è vero che è un esperimento fallito, è un esperimento che non costoso peraltro, e che non verrà riproposto. Come sia possibile non lo so dire. Ripeto, Garcia sta seguendo una sua precisa strategia. Credo che la Roma non abbia la possibilità, nemmeno la voglia, di lamentarsi degli ultimi arbitraggi, quello di in caso del Sassuolo, quello di Genova, insomma qualcosa ha raccolto, in alcune altre situazioni qualcosa ha lasciato sul campo, come è abbastanza fisiologico che sia. Non so quanto convenga alla Roma e a Garcia stesso, che è un uomo molto intelligente, continuare ad appellarsi a quel famoso arbitraggio di Rocchi del 5 di ottobre. Credo che sia il momento di voltare pagina e di trovare, non dico di smettere di lamentarsi o di smettere di fare comunicazione, ma magari di trovare un registro diverso per motivare i suoi giocatori, o per motivare l'ambiente, o per pilotare, tra molte virgolette, come è giusto fare, l'andamento della stagione della Roma. Ario, provincia di Imperia, buongiorno. Buongiorno. Dica. Volevo solo dire una cosa in merito a Zeman. A me non sembra, dalle ultime partite che ho visto, che la squadra potesse aspirare a chissà quale situazione. E così pure quando è stato esonerato dalla Roma, sei elementi potevano essere di livello come quello che la Roma ha detto, ma gli altri sei che erano in campo. Io penso che sia uno dei pochi allenatori al quale si chiede così tanto e immediatamente, appena le cose non funzionano. Sì, però Ario è anche uno dei pochi allenatori che è in grado comunque di prendere, di guadagnarsi, di conquistare comunque e a prescindere un contratto, nonostante insomma non porti a termine una stagione in Serie A dal 2005. È tanta roba dal 2005, sono nove anni che Zeman non riesce a concludere una stagione di Serie A perché viene esonerato. Quindi una ragione ci sarà. Si tratta di capire che cosa vuoi da Zeman. Se ti aspetti di calcio spettacolo, hai una squadra che magari non il Cagliari io credo si sarebbe salvato anche con Zeman in panchina, però sei terz'ultimo in classifica a Natale e qualche legittimo dubbio ti viene quando ogni volta che vai in campo prendi 2, 3, 4 gol, allora qualche legittimo dubbio ti viene e allora la voglia di rischiare magari viene meno. E di conseguenza faccio fatica a dar torto ai dirigenti del Cagliari che dicono va bene, ci abbiamo provato, non ci siamo riusciti e quindi cambiamo registro, magari chiamiamo Gianfranco Zola. Fatemi leggere quest'ultimo tweet che mi invia Franco Piantanida. Paola Ferrari su Twitter attacca la Domenica Sportiva. Ieri 21/12/2014, share 8,5% l'anno scorso, share 13,5% 5 punti, meno share 800.000 spettatori persi. Vabbè, mi sembra veramente una battaglia di retroguardia. Tra poco inizia la sfida, ma è solo un gioco. Ciao a tutti, Franco Piantarino, il nostro dottore Fabio Cantadone in regia, ci sentiamo domani alle 2. Con moderni miti, tributio di cori, bandieri e persigli, sodono assordanti di tromba e di squilli, e si intravede lontano il sottopassaggio, il divin codino, il divino baggio.